professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni, perché è nel contrasto che c'è la vita, se no è come tutte le altre trasmissioni, e allora che facciamo? Parenzo, vuoi che inizio subito con una notizia strana? Una notizia. Il 2 giugno la festa della Repubblica. No, non mi pronunciare la parola festa della Io Repubblica. Invece, sai che mi sono emozionato di tutti quegli straordinari militari. Lo Stato. No, voglio dire solo questo. Mi sono emozionato stamattina quando ho visto tutto e ho seguito la parata del 2 giugno. Vabbè, ti sei emozionato, ti emozioni con per lo poco. Stato. Sì, lo Stato. L'esercito, allora, i carabinieri. La notizia che ti voglio offrire subito in apertura è una notizia fondamentale soprattutto per il popolo ebraico. Allora, la genialità dell'imprenditoria ebraica è notoria, no? Non esiste intanto. No, ma l'imprenditoria di persone di religione ebraica. Ecco, ma hai detto una stupidaggine. Ma dai, su, stare sempre lì. Allora, stare sempre lì è una stupidaggine, l'imprenditoria ebraica, cosa vuol dire? Un rabbino, professori un ebraico, rabbino ortodosso, ma uno se è ebreo non è che si deve vergognare, tutt'altro. Ma un che rabbino... c'entra? Ma uno direbbe mai l'imprenditoria cattolica. Allora, un rabbino ortodosso israeliano, ortodosso israeliano, si è inventato un tale Nathan che tanto siamo come tuo figlio, Nathan Alexander, si è inventato i vibratori kosher. Adesso non mi pigliare in giro. Kosher, scusami. Ma sai niente, I vibratori kosher, no, ti stavo chiedendo come si pronuncia prima della tua interruzione. Vibratori kosher, cioè dire conformi, adatti a essere utilizzati secondo i dettami della religione ebraica. Kosher sex. Ecco, d'accordo, benissimo. Ma sono stati scritti interi libri dai rabbini sul kosher. No, sex. Però siccome evidentemente la cosa che voglio capire è che secondo la religione ebraica non possono essere utilizzati, spiegami. No, esattamente il contrario. No, spiegami perché allora vengono inventati i vibratori kasher. Dei vibratori che possono essere usati all'interno dei giochi, perché il sesso nell'ebraismo non è considerato tabù. No, d'accordo, allora basta che non ci sia dispersione di seme, ma quello per qualunque religione equivale, no? Basta che non ci sia dispersione di seme. Se uno parla di religione sa che è così, vabbè, qualunque allora... religione ti dice che disperdere il seme è peccato, poi ci puoi credere o non credere. Ma ognuno perché quelli normali non vanno bene, bisogna fare quelli col kasher? Allora, non essendo io, come dire, così ortodosso, non mi sono mai posto la questione. Ma no, ti pare normale? Perché evidentemente secondo l'ortodossia non possono essere usati. È evidente, no? Allora bisogna inventarsi i vibratori kasher. Sì. Ma se l'ha inventato vuol dire che c'è un genio assoluto. Ma non è un genio se l'ha inventato, per quelli proprio ortodossi, per quelli molto attenti alle cose religiose, evidentemente i vibratori normali non vanno bene, perché è lecito ricorrere a giocattoli, cioè siccome non è proibito di per sé, però ci vogliono quelli kasher. Ma che poi, anzi, che vuol dire obbligo, quelli kasher? No, ti posso dire di più per quel che so. È un obbligo dell'uomo dare piacere alla donna nell'ebraismo e viceversa, ma la donna può addirittura chiedere lo scioglimento del matrimonio nel caso non si ritenga sessualmente soddisfatto. Quello anche in Italia, matrimonio non consumato, matrimonio bianco, ma tu non devi mai nel cattolicesimo non c'è la questione del dovere di dar piacere, però nell'ebraismo c'è il dovere di dar piacere. Io non ho capito perché ci vuole il vibratore kasher, qualcuno ce lo spiegherà, ma questo devi, a parte che è un rabbino australiano, vabbè. Cioè, in Australia sono strani. Cioè, allora ti spiego. Allora, dopo aver aperto sui vibratori kasher in Israele con un rabbino ortodosso che li vende online. Ma non è Israele, però, credo sia l'Australia. Vabbè, un rabbino ortodosso a Tel Aviv che li distribuisce. Ma lasciamo, beh, in Australia, si ha ragione, è vero. No, è nato in Australia questo qua, è nato in Australia. Comunque, Giovanni Toti, neo governatore della Liguria, il signor Giovanni Toti diventa subito salviniano, subito, ha capito come gira il vento, eh? Signor Giovanni Toti, e dice che bisogna sgomberare i campi rom abusivi. Che campi rom abusivi debbano essere sgomberati, poi con la ruspa, con la pala, con il piccone, con la cariola, col mezzo che riterrà più adatto, ma non c'è dubbio. Ieri noi abbiamo appreso da Salvini che in realtà i governatori non possono fare una mazza, non possono intervenire, dunque non ci sarà nessuna ruspa che si mette in moto, secondo quello che ci ha detto ieri Salvini, Vabbè. Nessun profugo in Liguria perché arriva l'estate, Giovanni Toti. L'immigrazione noi non siamo disponibili ad accogliere nuovi profughi in questa regione, si apre una stagione estiva che in questa regione è molto importante. Ma la notizia di oggi, al di là dei governatori, eccetera, eccetera, è De Luca, neo governatore della Campania, chissà per quando, ma per è ovvio. Ore. Beh, ore, no, ma in realtà questa procedura di sospensione potrebbe prendere anche 15-20 giorni. È il traccheggio, amico mio, traccheggiano. Allora, De Luca. Dall'Afghanistan, quello lì, il presidente. Non lo so, De Luca ha denunciato la Bindi per vari reati, abuso d'ufficio, diffamazione, di tutto gli ha detto, di tutto. Bindi, ieri sera a Piazza Pulita. Io credo che l'accusa che mi è stata rivolta da alcuni esponenti del mio partito sia un'accusa infamante, diffamatoria, che adesso a urne chiuse mi sento di dover sottolineare e per la quale chiederò al mio partito di chiedermi scusa. Altro che scusa, qui De Luca addirittura la denuncia, e non solo De Luca la denuncia, credo che siano imminenti altre denunce da parte di persone escluse che non sono passate al Consiglio regionale, non sono state elette, però erano state inserite nella lista degli impresentabili, perché questi signori qui, tra cui credo ci sia pure Lady Mastella, la cosiddetta Lady Mastella, cioè dire Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, che è imbufalita anche con la Bindi, perché ha preso 10.000 voti, non è stata eletta perché la legge elettorale consente queste cose, però dice di essere stata penalizzata dalla Bindi, ragazzi, Allora, abbiamo appreso ieri da Del Debbio, dove era presente anche Parenzo, sì, abbiamo appreso a Quinta Colonna che non si può dire la parola zingari. Cioè, è una cosa curiosa questa cosa qua. No, ma come? Non ha scritto anche a noi il Garante? Sì, il Garante, io ormai le lettere manco leggo più. No, ma è la stessa figura che evocava. Sì, sì, lo so. Del Debbio dice che non professore. Si può pronunciare la parola zingari. No, professore Del Debbio. Professore Del Debbio, sì, scusa. Lei professore. Non dite la parola zingari in questa trasmissione, perché poi ci arriva una letterina del Ministero delle Pari Opportunità. Ci dicono vero che non è giusto, addirittura illegale, insomma contro la civiltà, dire la parola zingaro. Ricordo che la parola zingaro non l'ho detta io, ma devo riprendere anche altri se la dicono in trasmissione. Comunque dico a questi del Ministero delle Pari Opportunità, io rispetto quel che voi mi avete detto, parlate con qualche collega di altri ministeri se potessero risolvere la questione dei rom. Io risolvo la questione di non dire lo zingaro e voi risolvete la questione dei rom. Grazie. Dai su, ma siamo veramente al ridicolo, veramente al ridicolo. Allora, abbiamo con noi finalmente Vittorio Sgarbi. Vittorio, eccoci. Eccolo qui. Allora, De Luca ha querelato la Bindi, la signora Bindi. Ma ti pare normale a te che si scaldano tra di loro all'interno del Partito Democratico? Ma questo non lo so, mi sembra normale che una persona difenda il suo onore davanti a una diffamatrice abituale che si copre le sue immunità parlamentare. Cioè, la Rosy Bindi in questo caso non è un parlamentare, ma è una signora che ha usato la sua carica per, tra l'altro la sua carica non è, diciamo, commissaria della trasparenza, per cui non può naturalmente esprimere, ma presidente della commissione antimafia. Sì. La parola antimafia in sé fa pensare che chi è messo in una lista di impresentabili lo è perché è mafioso. Siccome la fattispecie del reato di questo nostro bravissimo sindaco e oggi governatore non riguarda la mafia, perché se la deve occupare lei? Cioè, già questa diffamazione è il fatto di usare una carica pubblica che ti hanno dato perché sei stata nominata e non eletta, messa lì per ricatto politico, perché ti hanno messo, perché altrimenti avresti rotto i coglioni dicendo sì, come no, certo, quello che meritavi, e tu usi quella carica. Ma poi devi spiegare, c'è anche l'elemento razzistico, io la denuncerei per ragioni... Aspetta, avvicina un po' più la bocca, non si sente? Sì, anche per ragioni di razzismo, cioè perché ci sono impresentabili soltanto in Puglia e in Campania, non ci sono forse in Liguria? Ci sono in Toscana, no, hanno fatto, hanno visto, sono? Hanno visto, come dire, i fatti che venivano, le carte delle varie procure, e hanno scoperto che in realtà non c'è nessuno, infatti ce ne sono pochi rispetto... Ma è assolutamente inaudito. Non è assolutamente possibile, ci sono persone che hanno fatto cose gravi e che sicuramente sono state candidate, indipendentemente poi dal fatto che abbiano dei reati riconoscibili, ma l'impresentabile in Italia è solo un meridionale, questo è razzismo. Io no. Più di così, cioè io no, ho visto solo nomi, poi a parte quella brava ragazza, dico, c'è un libro meraviglioso che devi far conoscere nella tua trasmissione, di Pietro Toni, il magistrato che assolse Pacciani, sì, sì, che dice io non posso tacere, e dice esattamente questo, che uno assolto in primo grado, sì, sì, è assolto sia dall'accusa del giudice sia da altri giudici terzi che lo assolvono, se quella testa di cazzo del pubblico ministero che non è soddisfatto della soluzione, sì, ricorre, vuol dire che tu sei ancora colpevole. No, ma infatti De Luca, tra l'altro, per quell'accusa per cui è in ballo, in sostanza, che è concussione, eccetera, ha rinunciato alla prescrizione, è una roba di 17 anni fa. Sì, ma la Bindi dice io ho applicato il regolamento della commissione, cioè ma c'era una commissione, un codice che l'ha sconfessata, però sentito i Carboni e gli altri che hanno detto sì, che non c'è stato nessun voto. No, molti... la querela non è la querela, io la chiederei dei danni, perché siccome la querela poi finisce con l'immunità parlamentare del cui si copre questa pregevole falsa deputata, occorre un risarcimento per danni. Cioè, se io chiamo impresentabile per mafia uno il cui reato non riguarda la mafia, ma tu pensa la povera per così dire moglie di Mastella, ma che cazzo c'entra la moglie di Mastella? Avrà fatto qualche cosa con la sanità, non l'avrà fatta? A una, siccome si chiama Mastella ed è nata in Meridione, deve essere nella lista degli presentabili. Ma che roba è? No, ma la cosa incredibile non è tanto il fatto del Meridione, perché evidentemente nelle altre liste delle altre regioni non c'erano persone che avevano i requisiti per essere definite impresentabili. La follia è che questa roba qui è arrivata a poche ore dal voto, ed è una roba tutta della Bindi, sconfessata da molti membri della Commissione Antimafia. Poi ho simpatia per De Luca. Sì. Ritengo che essere incriminati per qualcosa non voglia dire essere colpevole, altrimenti Tortora sarebbe sempre colpevole. Sarebbe sempre colpevole. Ma tu come la definisci la Bindi? Come la definisci? Una Torquemada? Io l'ho definita più bella che intelligente e ne sono soddisfatto. E la battuta ebbe fortuna, è coniata da me e da Martinazzoli, e poi rubata da Berlusconi. Però negli ultimi tempi mi ero ravvicinato a lei per questa ragione. È l'unico deputato del PD, o anche dell'area berlusconiana, ma quella era prevedibile, eletta per meriti propri, non perché ha un uomo dietro. Ah, sì, è vero, uomo è vero. Sarebbe dietro la Bindi, perché la Moretti l'hai vista, la Boschi l'hai vista, ognuna di queste ha un uomo dietro, motivatamente, ma senza che il Renzi le mettesse capolista alle europee, una delle quali la Picerno, modestissima al posto di Emiliano, hanno preso voti senza avere in realtà merito per prenderli, li hanno presi automaticamente. Ora, quell'altra era stata eletta ed è eletta da sola. Però ai tempi in cui fece la commissaria nel Veneto, mortificando all'epoca il grande ministro Bernini, si è applicato un moralismo che corrisponde a un giudizio preliminare prima del processo. Ora, qualunque, perché poi la cosa incostituzionale, cioè quello che dispiace oggi in Italia, dalla Severino in avanti, che noi dobbiamo difenderci dalla legge. Secondo me, che va fatto di questa cosa della Bindi? Fanno bene a denunciarla. La Severino, cioè tu sei colpevole solo dei reati per cui sei condannato. Possono dire poi che una condanna in primo grado può essere una ragione per non candidarti, ma una volta che ti candidano, la Costituzione è più forte della Severino o no? Siccome in questo momento il nostro De Luca è non colpevole, nessuna legge può cacciarlo, se non contro la Costituzione. Ho capito, abbiamo in Italia liste di impresentabili e leggi che sono contro la legge, contro i cittadini. Ma chiunque si ribelli alla legge, fanno bene a denunciare la Bindi o no? Questi qua fatto benissimo, ma ancora poco. Ti ricordo, la denuncia non cambierà molto. Che bisogna fare secondo te? Il PD la deve cacciarla da calci nel sedere dalla commissione. Io la caccerei subito dalla commissione antimafia, da tutte le parti. Però è vero che siccome ormai c'è una morale grillina, basta che uno abbia un odore di condanna o un odore di processo per essere incandidabile, innominabile. Ma che roba è? Dobbiamo ricominciare a parlare dei Tortora, dobbiamo cominciare a parlare delle vittime. Fermo lì un attimo che c'è il traffico, torniamo tra un attimo. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. No. Sono una boiata pazzesca. Traffico, no. No. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Siamo qui anche il 2 giugno, la Zanzara, 800-24-00-24, con noi Vittorio Sgarbi, che ha tuonato contro Rossi Bindi, ma era abbastanza prevedibile. Voglio chiedere una cosa a Vittorio, i grillini cantano vittoria, in realtà nelle regioni poi contano poco e niente, nella realtà delle cose, cioè dicono abbiamo preso oltre il 20%, eccetera. Beh, cresciuti, in alcuni casi siamo diventati il primo partito, sì, però poi ragazzi in politica non è che bisogna prendere solo i voti, bisogna prendere i voti ma saper pure governare, altrimenti se non governi mai, se dici non voglio fare alleanze con nessuno, non facciamo quelli che loro chiamano inciuci, poi alla fine resti al palo, o no? Ma dicono cose giuste, potrebbero anche avere risultati migliori, perché è evidente che una classe politica che non abbia l'ombra della disonestà sembra quella ideale. Il fatto è che, come diceva Croce, il vero politico onesto è il politico capace. Uno incapace può anche dire che gli altri sono dei ladri e lo sono, ma non per questo è in grado di governare. Quindi loro li ho sentiti, lo fanno altro che dire fuori tu hai la condanna qua, la condanna là, sì, condanne solo il Caravaggio non sarebbe un grande pittore perché ha avuto Pasolini. Pasolini è stato cacciato dal partito, era stato incriminato per pedofilia. Sì. Quindi voglio dire, è inutile andare avanti. Anche hanno rotto i coglioni anche a te, Hanno rotto i coglioni anche a te, su delle stupidaggini che non riguardano. Senti, però ti sei pentito di avere definito Toti, che è diventato il governatore della Liguria, il fratello di anche no, tu. Mi pare che sia interessante che il fratello di Liguria sia la guida della regione Liguria. Cioè, in che senso? Confermo tutto, vi ho sentito anche ieri con Scajola. Sì. Toti è una persona la cui fortuna è stata determinata dall'effetto di separazione della sinistra e quindi... Cioè ha vinto solo per quello, dici? Beh, non mi pare che abbia vinto perché i Liguri hanno identificato in lui il loro presidente, però certamente è una persona semplice. È stato anche abile, quindi... forse, per come si è presentato la campagna elettorale, perché alla fine... Sai... Vabbè, obiettivamente è bene avere almeno un'amministrazione o due in Italia che non sono di sinistra, perché non è che la sinistra... Beh, però tu dici, resta per te resta il fratello di Dudu, cioè dire uno... Non verrà mai espresso delle virtù tali per cui io possa ritenere, spero che... Capirò, se lui mi chiederà di fare qualcosa per la Liguria, Lo dico perché è per quella ragione per la ma quale io sono d'accordo, per me dovresti fare tutto. La cultura, ho fatto esempio. Delle cose molto importanti in ogni parte d'Italia. Loro hanno, non esiste l'arte in Liguria. Per te, se io dico imperia, a te cosa viene in mente? Scajola è un falso processo, che ieri hai fatto sentire, ho cercato di volgere a suo favore, legato all'innamoramento per una donna che è diventato un processo per macchia. Quello è imperia. Quindi tu imperia faresti... piena di meraviglie. L'assessore vorrebbe dire la cultura in Liguria. L'assessore beni culturali in Liguria. No, l'assessore no, ma ci sono attività da fare. La Liguria è una regione di una bellezza tale che non viene mai fuori o Burlando che va contromano. O la paita che fa qua. Vabbè, ma perché non vuoi fare l'assessore? Fai l'assessore. No, non voglio lui non vuole fare l'assessore, lo so perché. Perché fra poco, ma ho capito benissimo che dici. Fra poco, visto, possiamo anche dare un semiannuncio. Fra poco ci sarà la candidatura ufficiale di Vittorio Sgarbi a sindaco di Milano. Diciamolo tutto, Vittorio. Diciamo. Cioè, l'abbiamo già detto, certo. Beh, sì. No, ci sarà. Anche perché voi siete già miei assessori, Sì, la Zanzara siete voi. Beh, stupendo, assessorato alla Zanzara, meraviglioso. Allora, l'assessore all'idiozia. Ma è vero, allora ti candidi ufficialmente. Tutti gli idioti vengono in ufficio. Credo di sì, ma non è che lo faccio perché ho ambizioni politiche, ma perché mi sembra che sia assurdo lasciare la città di Milano senza un'idea, un progetto. No, hai ragione. Qualcosa che abbia a che fare. Noi saremo al tuo fianco, stai sicuro che saremo al tuo fianco? I tuoi dioscuri. No, ma questo non c'è dubbio. Il 22 vi ha visto, quello che ho fatto oggi, mi ha intervistato Rai 1 sull'arte all'Expo. Citandomi la Bicroft e Guttuso, ha visto tutto Parenzo. Può sapere quello che dico, non è che lo dico sulla base. No, ma sto scherzando, però. Allora io dico, siccome c'è già il simbolo, Parenzo, tu devi sapere che c'è già il simbolo, è vero Vittorio? Sì, ho visto un simbolo molto semplice, non è alcun partito. Io voglio voti di chiunque che abbia il senso e la coscienza di cos'è Milano. Per cui il 22, no? Il 22. Il 22 pare che faremo questa conferenza stampa. Pare, adesso non dire pare. Non è così. Il 22 però. È importante, no? Un anno, un poco più di un anno prima, candidatura ufficiale con tanto di simbolo di Sgarbi a sindaco di Milano. Io voglio capire una cosa. Che ti è successo all'Expo che i carabinieri sono furibondi? Ho incontrato due. Non si è capito. Beh, nulla. Hai denunciato i carabinieri? I carabinieri perché il giorno dell'inaugurazione, dopo essere andato lì 40 no. E l'ha visto Parenzo, hanno inventato che non c'era la targa della mia macchina, che non ho segnato. Mi hanno fatto arrivare alla inaugurazione con 3-4 ore di ritardo. Li ho denunciati per un'interruzione di pubblico servizio. Aspetta, avvicina la bocca. il direttore generale del ministero, Scoppola, sì, l'hanno tenuto fermo per un'ora e un quarto. Questi la devono smettere di rompere i coglioni alle persone serie. Però, per fare delle cose che riguardano, avvicina la bocca, Vittorio, del culo. Come controlli del buco del culo, Vittorio? Devono controllare, vedono uno, dice buongiorno Oscar, mi sono sfumilatore i documenti a uno così che gli ma sono poi le direttive di Alfano, si vede, scusa, un carabiniere. Sono le direttive di Alfano per... Sì, ecco, Alfano perché non è la lista? Alfano è stato a pranzo con diversi mafiosi, c'è un pentito che dice che era, ha preso i voti da lui, perché non è la lista degli impresentabili, perché non è stato cacciato a pedate nel culo, e perché altra cosa fondamentale a pranzo con i mafiosi, no, ma mafiosi non si può dire, ma non è vero, dai, a pranzo con i mafiosi un pentito è attendibile, ma un pentito può dire quello che gli pare, un pentito, però i pentiti sono utilissimi, hanno tenuto in galera per 3 anni Mannino sui pentiti. Cioè, tu dovete dici... leggere questo libro di Toni, però, che è bellissimo. Mi chiedo che l'ordine del perché non è impresentabile. Perché Mattarella non è intervenuto oggi per sentire la Bindi? Cioè, un presidente della Repubblica non può dire va bene così. No, no, ma certo, perché la Bindi ha applicato la legge. Ma che ha applicato la legge? C'è un codice votato da quella commissione, che può piacere o no quella cazzo di commissione, figuriamoci. Ma non è la commissione per la trasparenza. Però scusa Vittorio, ha applicato, tornando ai fatti dell'Expo, non è bello denunciare i carabinieri? No, infatti. Pare che... No, io ho denunciato delle persone che erano vestite da carabinieri, che rompevano il pubblico servizio, dopo aver detto a Sgarbi, buongiorno, come va? Con un suo ammiratore, facciamo un selfie. Hanno fatto il selfie, sì, e poi hanno preteso i documenti per farmi ritardare. Ma tu gli hai detto fascisti, gli hai detto di tutto. Sì, ho detto sono metodi fascisti, l'ho anche messo nella mia denuncia. Ho denunciato, però, giustamente, come hai letto la denuncia, denunciati presso la polizia di Riva del Garda, cioè il Trentino Alto, sì, Adige, che è una nazione invece autonoma. Poi a Napoli hai dato uno schiaffone a uno, che è successo? No, quello l'ho preso, sono stato aggredito, ho denunciato, ogni tanto bisogna denunciare, ma si denuncia perché rimanga traccia delle cose come sono andate. Però non ho fatto scatenato, che pretendeva un'intervista e mi ha quasi strappato un orecchio, ma quello è documentato. Ma lui dice il contrario, lui ma dice Tito Andronico che strappa l'orecchio, ho 300 testimoni e c'è il filmato che lo vede, te lo fa vedere, quindi, no? Quello proprio ha perso strappato la testa, un orecchio, sì, quasi strappato un orecchio. Un'immagine caravaggesca quasi. Sì, sì, roba da fare. Comunque, comunque ragazzi, la cosa fondamentale è questa, la notizia ufficiale è questa: il 22 di giugno, diamola qua in esclusiva, il 22 giugno ci sarà la candidatura ufficiale con tanto di logo e con largo anticipo di Vittorio Sgarbi, la zanzara è con lui, a sindaco di Milano. Arrivederci, ciao Vittorio, è il 2 giugno, giornale radio, e poi torniamo, lottiamo insieme a voi. La zanzara. Buonasera dottor Cruciani, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfilata. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Allora io non so se qualcuno di voi crede alla storia, però fino a prova contraria dobbiamo crederci, alla storia della madre Rom, Parenzo, della madre dei Rom implicati nell'incidente automobilistico, cioè dell'investimento di quella filippina, nell'uccisione di quella filippina, la madre che ha sostanzialmente consegnato i figli, no? Allora tu ci credi o no? Tu ci credi o no? Ma io non ci credo semplicemente perché la no, pensavo che sostenessi madre... pensavo che tu sostenessi una cosa, che che questa madre rom è meglio di quelle delle madri italiane che coprono i figli. È esattamente ecco perché non posso non ho elementi per giudicare, ma quello che ti posso dire è che è esattamente come le madri italiane, come qualunque madre, no, italiana, come qualunque madre. Quindi può essere che magari all'inizio le abbia coperti, anzi può essere praticamente sicuro, perché così sono i fatti. Poi a un certo giorni, punto poi a un certo punto dici poi può essere che a un certo punto si sia non redenta, ma semplicemente si è resa conto che ha fatto due calcoli. Però è come l'umanità, cioè come qualunque madre di qualunque figlio bischero, anzi peggio che bischero in quel caso criminale, esista al mondo. Cioè non c'è una fattispecie madre rom, questo voglio dire. Beh, insomma, adesso non esageriamo. No, io invece su non c'è una fattispecie madre non rom. Non esiste, no, è madre. Le madri rom sono un po' diverse dalle madri. Io ho visto, abbi pazienza, amico mio. Sono madri. Cioè tua madre ha le stesse, come dire, sensibilità, eccetera, di una madre di un campo rom. Dai, no, su. Ma sapevo che avessi usato questo argomento, amico, ma non mi interessa. Ho detto che ha usato gli stessi criteri di qualsiasi madre del mondo, temo. Credo che in generale proteggi il proprio figlio. Io penso. Eccola qua, comunque. Madre Rob, devono pagare se hanno sbagliato. Devono pagare che sono fatto questo, come se sbaglio, ecco. Anche io chiedo scusa, ho fatto mio figlio questo sbaglio, che chiedo perdoni la parente e la signora che non c'è più. Poi se la figlia a un certo punto con la giornalista e ti dice ti spacco la telecamera, ti meno. Le posso chiedere solo se sa perché stava scappando suo figlio? Scusa signora, che ti rompo la camera. O ti meni tu me, o io ti meno te. Non mi fai arrabbiare più, basta. Vabbè, però calma, calma, ti ha chiesto se, io penso se portava... tu vai a Scampia, io penso una cosa, no, se tu vai amico, a Scampia, che c'entra? Vabbè, non sì, peggio, certo. Se tu vai a Scampia, te fanno parlare. Dove? No, dove spesso ci sono famiglie disastrate, non ti fanno entrare dentro casa, non ti no, fanno... uguale, la reazione è uguale. No, forse è uguale. Non ti fanno nemmeno entrare dentro casa. Forse, però. Bravo, non ti fanno nemmeno entrare a casa a Scampia, ma come nel quartiere Zem di Palermo Parenzo, magari. Scampia come i Rom, amici di Scampia chiamate. Scampia, abitanti di Scampia come... una cosa Roma. Talmente banale, ma Scampia per dire zona in cui c'è un'infiltrazione capito, criminale di un certo livello. Allora, la sorella. Tu non pensi che sia così? No. Sì, allora, vai, sì, vai sì. Esci una volta dallo studio, vai con la telecamera, come ho fatto anch'io tante volte, e vedrai la reazione. Allora, se vai a chiedere nei quartieri malfamati, dice scusi, suo marito è in galera? Sì, mio marito è in galera. Ah, dice, ma è il figlio perché non va a scuola? E ne trovi tantissimi di bambini che non vanno a scuola. Ti allontanano con la telecamera, sicuro. E beh, senza ombra di la sorella. Sempre di questa famiglia Rom, di uno dei Rom implicati. Sentite. Perché ha deciso di consegnarlo? Perché ci spiace per quella signora, Anton, un bambino piccolo, quanto hai guidato con la macchina a portare suo padre in ospedale, non capiva. Perché non si sono fermati a un posto perché di blocco? Perché la polizia c'era dietro, c'era paura Anton, era spaventato, non poteva vedere... Beh, insomma, adesso stava portando il padre in ospedale. Sì, ma saranno tutte balle. Stava portando il padre in ospedale, non risulta. Poi non è che se c'è il posto degrado, di degrado, scusa, ma però, se c'è il posto di blocco della polizia, una famiglia, una persona normale, normale, anche se hai 17 anni e stai facendo una cazzata, sì, no? Hai detto normale, cioè. Ti fermi al posto di blocco della polizia. Degrado, non è criminali, che tu vai a 180 all'ora in bestia e ammazzi una signora. Dai, su. Vabbè. Oh, Parenzo ieri contro Buonanno a Quinta Colonna. Che però non c'era purtroppo Buonanno. Beh, non c'era, no, non c'era. Comunque contro Buonanno. Gli hai dato del razzista, alla responsabilità politica dell'odio contro i Rom, che ci sarebbe in Italia, ci sarebbe. Che lui poi... e tanti altri. La politica, anziché aizzare, come fa un deputato, onorevole Buonanno, che è specializzato, lui è razzista, la parola razzista in alcuni casi va usata. È un deputato razzista, sì, che usa non questi signori... Ragione. Vabbè ragazzi, andiamo con gli ascoltatori. Dai, 800 24 00 24. Franco, provincia di Roma, vai. Franco. Pronto. Dimmi Franco, dimmi. Buonasera, per quanto riguarda, io volevo parlare per quanto riguarda il gioco di ieri che volevo. Sì, però parla bene, amico mio, dai, avvicina tutto, bocca, togli il microfono. Faccio una precisione. Una precisazione. Io sono un povero camionista, non so un intellettuale. No, ma io mica non ti sto rimproverando, ti sto dicendo. L'ho visto molto in difficoltà ieri sera a Quinta Colonna, l'ho visto molto in difficoltà. Moltissimo. Però volevo dire soltanto una cosa, io abito in provincia di Roma, però sì. In provincia di Latina che ce l'ho vicino. Scusami Franco, voglio aprire una parentesi. Sì. Finalmente, come avete sentito anche prima, si è dimesso il signor Joseph Blatter. Mm. Joseph Blatter, finalmente ce lo siamo tolti dai coglioni. Io mi ricordo solo una cosa, che non premiò l'Italia nel 2006 per la cerimonia di consegna della Coppa del Mondo. Chiusa parentesi. Franco, dov'è che abiti? Okay. Io abito a Nettuno, in provincia di Roma. Nettuno, provincia di Roma. Allora? Nella provincia di Roma. Però mia moglie fa una strada per andare a Latina a lavorare, dove passa davanti a un campo Rom. Sì. È chiamato il campo El Carama, che sta in un quartiere a Borgo Montello, in provincia di Latina. Sì. Cioè loro si mettono in mezzo alla strada, non ti fanno passare e ti tirano i sassi addosso alle macchine. Cioè è una cosa che si può fare. La polizia no. Sai che dice? Allora, mia moglie gli hanno sfondato la macchina. Sì. 2000 euro di danni. La polizia sai che mi ha detto? Metti un avvocato e fai causa alla provincia o alla regione. Cioè, ma siamo arrivati a Marte. Io ho detto, no, invece faccio un'altra bella cosa. Prendo due bottiglie, riempio di benzina e gliela butto dentro al campo. No, però scusa, così io non ti voglio, per carità, Franco, tu fai quello che te pare, ovviamente, però sì, ti faccio presente che se tu fai questo gesto qui, cioè pigli le bottiglie di benzina e vai e le butti dentro un campo rom, poi te carcere, amico mio. Ho capito questo, però è la realtà, perché tu sei, come dire, facilmente individuabile, se fai una cosa, allora, anche perché lo stai dicendo. Ti spiego un attimo una cosa, sai perché la polizia non fa niente? Perché io l'ho sentito con le orecchie mie, un poliziotto è stato minacciato da un nomade lì e gli ha detto che se facevano qualcosa gli ammazzava tutta la famiglia. Sì, vabbè, adesso voglio dire, i poliziotti non è che hanno paura dei nomadi. Il no, problema... paura no, però diciamo che... Vabbè, comunque se fanno dimola alla romana, se fanno i cazzi loro, Crucia. Non lo so se si fanno i cazzi loro, è che spesso i poliziotti non hanno strumenti neanche. No, loro, ma non solo non hanno strumenti, il problema è anche che hanno delle direttive. Le direttive sono quelle. Io ho un amico poliziotto che una volta ha arrestato un rom e l'ha portato a Velletri. Lui il rom già era arrivato a casa e lui ancora non usciva dalla questura. Cioè, parliamo sei chiari. Comunque io devo dire soltanto una cosa, io sono contro. Sono contro gli illegali, perché gli illegali per carità, se lavorano possono pure restare, non ci sono problemi, perché tanto i primi immigrati al mondo siamo stati noi italiani che siamo andati in America. Ma questi non sono immigrati, spesso sono italiani, sono 140.000, di cui credo 70-80.000 italiani, sì. Attenzione. Però a me la cosa che mi ha fatto più gli italiani devono vivere come gli italiani, cioè devono pagare le bollette, prendere le case in affitto come gli altri, trovare il lavoro come gli altri, esattamente come gli altri. Io non è che li voglio diversi, non li voglio bruciati, non li voglio minacciati, non li voglio in un enclave, in una illegalità continua, li voglio esattamente con gli stessi diritti degli altri. Per cui togliere i campi rom, la ruspa, chiamatela come volete, nei campi rom non è una roba al di là della politica. La ruspa, perché adesso è venuta c'è questa immagine della ruspa salviniana, ma insomma la distruzione di un campo rom è la più grandissima opera di civiltà che si possa fare, grandissima opera di civiltà, grandissima, ovviamente sgomberando un campo rom, mica ammazzando la gente, no? Franco, dimmi. Fuoco e tutto, e mo pensiamo ai ruste, cioè non è, secondo me non è quello il modo. Però la cosa che mi ha dato più fastidio di tutti è stato quel rom di ieri sera che rideva con la camicetta bianca, che piava in giro la gente, che lui diceva che era italiano, era di Roma, ma quale italiano? Ma non hai visto che non spiccicava una parola di italiano? Vabbè, quello che c'è, un sacco di gente che non parla italiano, pure italiano lo stesso. Sì, vabbè, ma se famo prendere in giro da sta gente, ma non, io non lo vedo, non lo vedo neanche giusto. Guarda, che quello lì, comunque, se non ho capito male, quello è un sinti, quello è un giostraio sinti, se ho capito bene la persona a cui fa riferimento lei di ieri. Italiano, ma quale italiano che non parla italiano? È nato a Roma, quello è nato, ma non parlerà italiano come tanti, ma la moglie sarà, cioè la madre è capitata con la giostra lì a Roma e ha partorito là, ma non parlava italiano, ma come fa? Dai, ma che se famo via in giro, dai. Vabbè, Franco, ciao. Comunque, ciao Carla da Roma. Questa è incazzato perché in quel campo là gli tirano le pietre. Scusami, abbi pazienza. Dai. Va bene, ma chi difende? Non mica difendo chi tira le pietre, io, per carità di Dio. Cara Carla, dimmi. Dovrebbe parlare molto forte. Aspetti che la richiamo. Vito da Roma, vai. Sì. Vito, abbassa la radio, dai, forza. Sì. Allora, dai, parla. Sì. Sì. Ma se non mi fate la domanda. No, scusi, aspetta. Scusi, la domanda. Aspetta. Amico mio, amico che mio. Trasmissione amico voleva mio. Chiamare? Amico mio caro, amico stavamo mio. Stavamo parlando dei campi rom. Sì, ma perché? Stavamo parlando, ha telefonato. Devo fare io la domanda. Pronto? Che cosa pensa dei campi fare io rom? La domanda a lei. Sì, una domanda. Va bene, comunque, se non mi fa la domanda intervengo... No, ma è uno scherzo, professore. È tutto vero? Scusi. Stavo dicendo. Chiariamo, ma stavi dicendo, non stava dicendo niente. Lei ha chiamato l'800 24 00 24. Questa roba che va in onda dalle 18:30. Aspetta, che non è il centralino dell'ospedale. Del centro igiene. È una trasmissione radiofonica che si chiama La Zanzara, che va in onda dalle 18:30 alle 20:50 con mille interruzioni, traffico, meteo. Mia nonna. Ho capito adesso. Nessuno. Sì. Che ha dei problemi con i campi rom. Sì. Però questo problema non è di oggi, è da secoli. Sì, da secoli. Anche Maria Teresa d'Austria, Maria Teresa, no, ha però... tentato di risolvere il problema dei rom, Maria, e non ci è riuscito. Sì. Anche Maria Teresa. Comunque, qual è la soluzione per risolvere questo problema dei rom? Qual è? Sì. Allora, uno potrebbe essere quello di Hitler. Sì. Ha fatto le camere a gas. Sì. Ha sterminato così i rom. Sì. Nelle camere a gas. È una soluzione. Sì, e io che io la contesto, non la condivido. Ah, ecco, bene, lei la contesta. Poi? Però c'è un'altra soluzione. Qual è? C'è un'altra soluzione, che è Robespierre. perché Robespierre ha inventato la ghigliottina? Perché ha inventato la ghigliottina? Matto, per fraternità, libertà, egalità. E dunque? Quindi un rom dovrebbe essere un fratello. Quindi va aiutato. Le istituzioni, i governi si debbono porre il problema. Sì. Il bambino, come piccolo, deve andare a scuola, deve essere, diciamo. Questo la pensa come te? Non è che si può risolvere i problemi in due giorni. No, questo l'abbiamo capito. Vogliono anni. Ci vogliono anni. Debbono essere educati. Dunque, la sua soluzione qual è? Robespierre o Hitler? Non ho capito. Come dice Salvini. Salvini, se andiamo con la ruspe e spaziamo i campi rom. Scusa, ma tu li spazi via da quel punto e loro dove vanno a dormire? Sotto i ponti? Hanno bisogno di un altro campo per dormire. Fermi tutti. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. La Zanzara. Una domanda, va bene, comunque se non mi fa la domanda intervengo così. Vito da Roma, è ancora in collegamento Vito da Roma? Sì, sì. Signor Vito da Roma, sì, è numero uno. Che mestiere fa lei, Vito? Diciamo, lavoro con il Circo Togni. Come, scusi? Lavora col circo. Abbiamo capito tutto. Lavora col circo. No, cosa fa il circo Togni? Che fa il circo Togni? Una precisazione? Sì, sì. Un prete, circa un secolo, cento anni fa, oltre cento anni. Un prete. Si è invaghito di una zingarella. Sì. E questo prete si è spogliato. Sì. E per dove vivere, è successo? Aspetta. Allora? Faceva gli spettacoli di piazza. Sì. E così man mano, così spettacolo più grande, poi quando pioveva una tenda, un tendone più grande, così. E così ha dato vita a una grande famiglia circense, la famiglia Togni. Sì. Quindi io e loro, degli artisti che lavorano per guadagnarsi da vivere, rischiano anche la vita. Sì. A volte si cade pure dal trapezio. Sì, certo. Ma questo che vuol dire? Scusi. Senta, volevo chiedere, visto che lei lavora al Circo Togni. Ma che fa il Circo Togni? È previsto un numero in cui l'onorevole Buonanno salta nel cerchio di fuoco? La parte, diciamo. Ma lei è itinerante o stabile? Sì. Diciamo. Sì, è la radio questa. Anche itinerante. Lei gira col tendone del circo. Che cazzo di mestiere fa lei? Scusi, Vito, che fa? La cassa del circo? No, la parte amministrativa, più che altro. Di un circo oppure di tutto il circo? L'organizzazione, così. Perché quando si va in una piazza, ogni piazza si va da una piazza all'altra, bisogna preparare tutta la documentazione, i veicoli, per la circolazione dei veicoli. Gli animali, buon anno. Senta, ma tra le voci di spesa del Circo Togni, avete previsto per la stagione 2015 una tappa a Bruxelles dove c'è un grande artista di circo che si chiama onorevole Buonanno? Avete previsto? No. Buonanno, lei conosce Buonanno? Buonanno lo conosce? Buonanno di fama lo conosco. Beh, certo, forse è di un altro. È di Bologna, che è stato senatore nel 2000. Ecco, lui è del circo Buonanno. Parenzo vuole consigliare Buonanno come nuovo numero del Circo Togni, cioè se nella prossima stagione... Si chiama Il Razzista, è praticamente una gheghina che potete organizzare dove mettete lui nella gabbia dei leoni e poi buttate dei rom nella gabbia dei leoni con Buonanno. No, è una gheghina. No, ma lui lo fa. È una gheghina del circo Buonanno, potete farla. No, perché dobbiamo... Se le leoni sono affamate se lo mangiano. No. Io credo sul serio. Quindi no. Non va bene. Anzi, c'è Alfredo Reichlin. Come, scusi? Alfredo Reichlin, qualche mese fa. Alfredo Reichlin, grande compagno. Allora, ha rilasciato un'intervista. Sì, un'intervista. In Italia ci sono i banchieri che governano in silenzio. Sì, Reichlin. Poi ci sono i direttori dei vari ministeri. Sì. Ma che c'entra? Le normative così, e le propongono ai vari politici. Ma che c'entra questo, scusi? Voglio dire che i politici vanno in TV così, però vuol dire che chi scrive, chi decide non sono i funzionari, sono i funzionari, sono i direttori dei vari ministeri, quindi possono cambiare i vari governi di destra o di sinistra, ma in realtà non cambia nulla. Guarda, questo l'ha, anche, l'ha confermato. Bravo. Anche un grande sindaco di Milano, Pisapia, grande sindaco di Milano, sì, del secolo, del secolo scorso, no? Ha avuto il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi, sì. Ma adesso ci abbiamo, però i vari direttori sono a vita nei ministeri, è loro che decidono, che propongono. Ci sono molte leggi che firmato, uno firmato, ma non mi ricordo il nome, no, che non sapeva neanche quello che aveva, che era scritto. Posso darle un firmano, consiglio? Portano, non sanno quello che votano. Vabbè, poi Vito. Ci sono, sì. Ci sono una proposito prima che vi ho detto di Robespierre. Robespierre, perché sì. Robespierre? Perché alla fine dell'anno c'è stata a Roma una riunione dei bancari, sì. 309.000 bancari, sì. Della Fabi. E la segretaria. Però scusi un attimo. Ha chiesto a 300 super manager, sì, manager, di tagliarsi il loro stipendio del 30%. E loro col cazzo. Di dare un gesto di grande sensibilità sociale. E loro? Però non è stato accettato. Cioè, però scusi, ma lei è così sicuro che non... ho capito bene. Vito, lei è informatissimo. Circa 2 milioni di euro all'anno. 1,9 milioni. No, ma lei è preparatissimo. È come Amato che prende 31.000 euro di pensione. È come Panza, 61.000 euro di pensione all'anno. Vito, ma lei è preparato. Il problema è qui, ci abbiamo dei manager, dei direttori, dei pensionati d'oro che quando vanno in... Non ha torto però questo Vito. Però Vito, io voglio chiederti una cosa, io ho capito bene. No, ma ho capito benissimo. Il vero problema è quello là. Dobbiamo fare come Salvini, che dobbiamo gli immigrati li dobbiamo buttare nel mare. I rom li dobbiamo con le ruspe, non è una soluzione. Va bene Vito, ti ringrazio, però guarda, prendi in considerazione l'idea di Parenzo per il 2015-2016. Di prendere buon anno questo deputato della Lega e fargli come fare artista del circo e fargli fare un numero. Lui è bravo, lui ha il suo circo a Bruxelles. Il problema è questo, che lui si muove, il suo circo è tra Bruxelles e Strasburgo, no? E invece sarebbe importante che lei portasse il circo buon anno in Italia, quindi capito? Magari no. Vabbè Vito, grazie, ciao. Allora andiamo in provincia di Pavia, Andrea. Buongiorno. Vai Andrea. Mi senti bene? Sì, ti sento bene, vai. Okay. Ah, ti voglio dire una cosa, Parenzo. Il pene diventa più piccolo se fumi, lo sapevi? No, perché ostruisce le vene, diminuisce la circolazione sanguigna. Beh, questo è abbastanza evidente. Io il sigaro, sì, un poco. E durante la vita il fallo, cioè il pene, cioè il cazzo, può restringersi fino a un centimetro. Questo è un ultimo studio, sai, di questi studi che circolano, no? Pubblicato non so dove. Comunque questo è il dato fondamentale. Tu sai quanto dura un rapporto sessuale medio per un fumatore? Nel mondo, no? In generale. Media? Sì, secondo te in media quanto può durare? Temo 10 minuti, no, 6 minuti. 2 minuti e 50. La media. Andrea, provincia di Pavia. È un dramma, sì. Andrea, provincia di Pavia, dai. La media mondiale. Sono drammi importanti questi. Ma queste sono cose fondamentali, altro che. Veramente? Fondamentali. Mi meraviglio che il Sole non faccia una pagina dedicata a queste statistiche. Magari venderebbe più copie. Andrea, vai. Allora, io volevo raccontare una mia esperienza. Io sono appena tornato dall'Australia per lavoro. Sì. Ho visto con i miei occhi quello che succede ai migranti che cercano di arrivare in Australia. Li cacciano, cioè non li fanno entrare. No way, c'è scritto. No way. Sì, no non way. Non importa in che condizioni è la barca. Ed è il più grande gesto umanitario che si possa fare. Il respingimento dei barconi è un grandissimo gesto umanitario. Grandissimo. Non si può prendere tutti. È fisicamente impossibile. L'Italia non è infinita, quindi non possono arrivare centinaia, migliaia di persone. E l'Europa non vabbè, fa niente. Allora, Andrea, andiamo a riassumere però. Tu dici che il metodo giusto da utilizzare è quello dell'Australia, cioè respingere e selezionare pochissime persone che possono entrare e mettere dei criteri molto rigidi per l'ingresso in un paese. Questo è il metodo che dovremmo utilizzare, giusto? Questo è il motivo. Sì, è difficile, però io sono d'accordo. Carlo da Perugia, non è impossibile. Carlo, quello che è impossibile è perché non si vuole fare un cazzo. Quando uno dice è impossibile questa cosa qui, è perché non si vuole fare nulla. Carlo da Perugia, vai Carlo. Infatti l'Australia lo fa. Carlo, vai. Certo, parlare dopo Vito del Circo Togni è un po' difficile, deve ammettere. Lo so, è difficile, diciamo, è difficilmente, è, diciamo, Carlo, si Carlo. Può, è difficile raggiungere quei livelli, diciamo. Carlo, vai, dimmi. Senta, io sono sempre d'accordo con lei, però questa volta l'ho chiamata perché vorrei una... Perché cosa? Quando dice dei grillini, io non sono un grillino, non ho mai... Aspetta che io sto cercando di beccare per telefono una persona che mi sembra incazzatissima, poi torno con lei Carlo, la moglie di Clemente Mastella, Sandra Leonardo Mastella, ha preso 10.000 voti ma non è stata eletta e credo che abbia qualcosa da dire a Rosy Bindi, è da un po' che la sto cercando, adesso mi dicono che il telefono è libero, adesso aspetti un attimo, fermo lì. Pronto? Ecco, sono Parenzo, signora Mastella, Radio 24. Dica. Come sta? Non c'è male, grazie, molto bene. Perché è arrabbiata con la Bindi? Ma mi vuole prendere in giro o vuole parlare seriamente? No, no, seriamente, ho visto che De Luca oggi come primo atto... Sì, l'ho fatto anch'io, già è stato diramato da pochi minuti il comunicato che ho corredato anch'io alla Bindi e gli ho chiesto anche che se veramente quella persona per bene che lei dice di essere, sì. Siccome ha fatto male a persone come me, io parlo per me, gli altri non li so, i fatti. Cioè lei ha perso altri. Per colpa della Bindi, come non è entrata me, in regione? No, io non ho perso per colpa della Bindi nella misura in cui lei sicuramente mi ha danneggiato, perché a 10 ore dal voto dire impresentabile, la gente non ha capito più niente, ha capito che io forse non mi potevano più votare perché ero tolta dalle liste, tant'è vero che più di una persona adesso a vedere i risultati che ho avuto dice ma come, ma perché potevamo ancora votarti? Lei mi sta confermando che io non sono stata votata, anche se avessi preso per io colpa della Bindi. Mi fa parlare per piacere? No, ma perché se lei pensa di chiamarmi ad attaccarmi in questo modo, no. Senza darmi poi la cosa di parlare, io rifiuto subito. No, ma anzi, ma perché è così incazzata? Se mi dà il senso di parlare, di spiegare, io le rispondo. Lei mi fa Prego. Una domanda precisa. Prego. Pensa che la Bindi non l'ha fatta essere eletta, io le rispondo immediatamente. La Bindi ha contribuito a farmi perdere sicuramente una percentuale di voti, però anche se l'avessi presi questi voti in più per la legge elettorale io non sarei stata comunque eletta. D'accordo, perché però... abbiamo perso. Se avessi vinto con Caldoro sarei stata straeletta. Ma dove ha sbagliato la Bindi? Questo voglio capire. Cioè la Bindi dice ho applicato un regolamento. Allora la Bindi ha sbagliato, no, perché mi ha messo in una lista dove io non ci dovevo proprio essere. Ma che c'entro io con l'antimafia quando io non ho una condanna? Allora anche tutti gli altri, anche molti altri, ci sono persone che sono state condannate per peculato, altri per reati attinenti alla pubblica amministrazione. Allora mettiamolo in questa cosa. Io non ho condanne. E siccome io non ho condanne, io non posso essere in nessuna lista di proscrizione di nessun tipo. Qui non si rispetta più la legge. E sai che cosa le dico? Ma è stato che un colpo di mano, una vendetta. Legge, questo paese è destinato a morire. Le posso dire che la Bindi ha sempre predicato, quando eravamo la Democrazia Cristiana insieme, che si dovevano fare i tre mandati e poi tutti a casa. Lei era quella fautrice di questa cosa, perché lei era alla prima mandato, voleva mandare a casa tutti. Poi lei ne ha fatto 150.000 di mandati. Questa è la Bindi. Scusi, signor Leonardo, sono Cruciani, come sta? Male. Buongiorno, mi dica. La denuncia, lei vuole chiedere i danni alla Bindi? Certamente, cioè io danni? Faccio una querela omnicomprensiva. Sì. Ma danni di cosa però? Allora, le posso dire, io ho querelato, sì, ok? Sì, sì. Ho dato mandato ai miei legali. Sì. Che cosa si potrà fare? Lo decideremo nelle prossime ore. Innanzitutto voglio prendere tutti gli atti, tanto per essere chiaro. Come si può quantificare il danno che le ha fatto la Bindi? Ma non lo so, andremo a vedere. Che chieda, un milione? Mi ha diffamato. San Filippo Neri? Sì. Allora, quando lui era un confessore, tutti andavano da lui, no? Perché era molto noto. Sì. Quando sono andato da lui un peccatore, sì, ha detto guardi, San Filippo Neri, io non ho fatto tanti peccati perché non ho ammazzato una serie di cose, io sono una brava persona, l'unico peccatuccio che mi devo confessare è che io ho calunniato una persona. Aspita, dice Don Filippo, ma ti pare padre Filippo Neri? Dice ma le pare possibile calunniare? Dice va bene, non è un peccato grande, allora io ti do una mi devi fare questa oddio come si dice quando manca la parola mi devi fare questa penitenza. Sì. Allora la penitenza era prendi un pollo, sì, vai per le vie, spenna il pollo e mandi tutto al vento. Oh, cosa figura, faccio subito. Lui va per il vento, sparge queste piume, ritorna e porta il pollo al Don Filippo, a padre Filippo, a Don Filippo Neri. Allora Don Filippo Neri dice bene, adesso ritorna e raccogli tutte le piume. Ma com'è impossibile? Ecco, questa è la diffamazione, la calunnia. È impossibile. Adesso voglio dire, vedo anche adesso in questo momento a Sky TG24 la impresentabile Lady Mastella, che poi ho trovato di Lady, ma li ringrazio, evidentemente mi ritengono una cosa superiore alla norma, io li ringrazio molto, ma io titoli nobiliari di questi tipi non ne ho, perché vivo in Italia, sono sicuramente una persona per bene, ma Lady proprio non voglio dire. No, ma Lady è intesa come moglie del più famoso Clemente Mastella. No, voglio dire, li ringrazio, Lady Mastella, perché la impresentabile, la Mastella non ce l'ha fatta. Poi va a spiegare alla gente, no, che è una legge iniqua. Io le rispondo alla Bindi, che in quanto a rappresenta, come si dice, impresentabile in quanto a presentabilità. E lei impresentabile? Penso che io la batto 1 a 10. Cioè lei è impresentabile, la Bindi? Ma voglio dire, se lei dice che ne sono io, perché non posso dire che era lei, scusami. Ma lei, secondo lei, si è comportata da buona cattolica, la Bindi, con questa Ma lei, non, lei da buona cattolica non avrebbe mai dovuto fare una cosa del genere. Perché ha calpestato i diritti costituzionali, perché ha calpestato la dignità delle persone, e perché se lo voleva fare non lo doveva fare a 10 ore dal voto. Neanche nei regimi fascisti si fanno queste cose. Lo voleva fare se lo voleva fare ancor prima. A parte il fatto che voglio vedere chi le dà tutta quanta questa legge. Insomma, secondo me sono un sacco di danni, dal punto di vista economico anche. Cioè, io non voglio dire... lo vedranno i miei avvocati, io non c'entro. Adesso io devo pigliare le carte. A me non cambia proprio niente che sto in consiglio o che non sto in consiglio. E cosa fa adesso? Continua a fare politica? E certamente, con questi voti, secondo lei non faccio politica. Certo che voglio continuare. Posso lasciare 10.500 persone su un territorio piccolo, Benevento, dove Forza Italia è al 23%? A chi devo lasciarlo? Tutti quanti i giovani che stavano con me li lascio soli. Ma non ci pensate proprio? Ma che ne so, io, ma è una domanda, mica gli ho detto che si deve ritirare a vita privata, per carità. È perché sono presentabilissima, capito? Io sono incappata, non so in che cosa. Ma una cosa è certa, che io sarei nella lista, perché a telefono ho detto a un signore che per me non lo volevo vedere, perché lui per me rappresentava un uomo morto, e io per questo sto davanti alla giustizia e per questo sono nella lista degli impresentabili. Ok, sto così, è così, che devo fare? Questa è l'Italia, lo sa. È l'Italia delle barzellette, perché questa è una barzelletta, ok? Lei c'è un dato di fatto, che la famiglia Mastella per la prima volta esce dalle istituzioni. Ma non è affatto vero, Clemente non è stato eletto neanche alla, quando appunto è stato presentato. Appunto, vede che non siete informati. No, ma non lo dico come cosa, non, perché pensa che sia una nessuno dei due ma è ma lei mi vuole prendere in giro, ma la prego, ma non è una presa in giro, ho molto rispetto per lei, ma non mi prenda in giro. Ma no, dico per viviamo, la prima abbiamo dimostrato di vivere anche senza potere, ma non è perché non avevamo potere. Io sono stato in consiglio regionale senza potere di nessun tipo. Ma De Luca fa bene a denunciare la Bindi? Sì, naturalmente, cioè, da parte sua l'ha fatto lui. Ma lui, allora, io e De Luca siamo due cose completamente diverse. Se la legge Severino dice che chi ha una condanna non c'è dubbio segue un percorso, io non ho condanne. No, ma da questo punto di vista, di che cosa me devo difendere? De Luca? De Luca si difende da solo. No, ma le stavo chiedendo se ha fatto bene. È il principio che deve valere. Se io non ho condanne, io sono innocente. Sì, okay? Però quel regolamento all'interno della commissione antimafia l'hanno sottoscritto tutti i partiti. Tutti i partiti, appunto. Posso dire, hanno fatto bene a sottoscriverlo, perché era giusto, prima che si fanno le liste, di passare attraverso un vaglio delle persone che si vanno a candidare. E in questo caso io sarei stata candidata perché non ho condanne. Ho dato mandato ai miei avvocati di querelarla, però giustamente devo vedere le carte, quindi adesso io chiederò tutta la documentazione, la valuterò. Con chi reati quali potrebbero essere? Diffamazione poi? È soltanto diffamazione, ci mancherebbe altro. Va bene, grazie. Ho detto che cos'è la diffamazione. Prego, arrivederci. Grazie, arrivederci. Mamma mia, come lotta la signora Mastella. Che devo dire, in questo caso un po' di ragione ce l'ha, perché devi... uno può odiare i coniugi Mastella, può odiare Sandra Leonardo, può dire sono brutti, sporchi, cattivi, truffaldini, clientele, ceppaloni, io non lo penso, però uno lo può dire, no? Uno lo può dire. Però non puoi rompere i coglioni a 20 non ore. Ma guarda la questione Mastella, questa roba. Ma no, ma no, quello è un simbolo, no? Signora Mastella è incazzata nera. È un nera. Simbolo. È incazzata nera perché. Mafia, può piacere o no? No, ma non si è data un ragone. Ma non si fa così a 20 ore dalle elezioni, dai, su. Ma te le regole piacciono a quali regole? Ma non è vero, ognuno lo sai benissimo. Lo sai benissimo. È anarchia assoluta. Si è fatta allora, le regole da sola. Se tu sostieni che c'è una discrezionalità della commissione, sì, ma non stiamo a spaccare il capello in quattro. qui. Ogni volta che uno mette un argomento, sì, ma chi se ne frega? Ma c'era allora, Carlo da Perugia, però se fai finire. Ha sbagliato. Fai finire Carlo da Perugia. Sì, ma non c'è la regola qui. Niente, qui c'è l'operazione politica. Ecco, questa è la tua tesi. Della Bindi contro Renzi. Sostieni che c'è un'operazione politica. Ma c'è solo quello, solo appoggiandosi sulle cazzate che hanno fatto i partiti creando questa regola assurda della commissione antimafia. Assolutamente, Carlo da Perugia, ma è l'unica. Io non credo. Ma certo che è così, dai, su, ragazzi, ma di che parliamo? Dai. Concordo, Cruciani, concordo. Allora? Pronto? Mi sente? Sì, Cruciani, sì, concordo. Vai, dimmi. Concordo assolutamente. Prima mi fa parlare dopo Vito del Circo Togni, adesso dopo la signora Mastella. Sono abbastanza d'accordo con la signora Mastella, però paradossalmente Rosy Bindi potrebbe rispondere che gli ha dato una grande esposizione mediatica, una grande pubblicità. Sì, quello che dicono alcuni del PD per quello che riguarda De Luca, poi dice questa cosa con De Luca ha funzionato al contrario. Diciamo. Paradossalmente potrebbe anche aver aumentato i voti. Però, diciamo, se uno diventa impresentabile perché lo dice la Bindi a due giorni prima delle elezioni, lo dice la Bindi, lo dice solo la Bindi, l'ha detto solo la Bindi. Non c'è un componente della commissione che si sia esposto su questo. Te lo chiedi perché? Che non c'è un componente insieme alla Bindi che si sia esposto su questo, te lo chiedi o no? Bindi ha applicato la legge, dai, su, la Bindi ha applicato quello che è il potere della sua commissione. Vabbè, nella hai sua commissione ha agito nel rispetto le delle leggi, hai ragione. No, io non sto facendo un commento, sto dicendo di come sono andate le ma cose. Non è tutto legato alla forma. Alla forma, certo, non ha violato nessuna legge. Ma noi, oltre a dire me, come la pensiamo, possiamo dire come sono andate le cose? Ma anche? Non è come sono andate le cose, è sempre frutto di interpretazione. Ma è sempre frutto di interpretazione. Ma ci sarà una roba di come vanno le cose. No, può commentare, è sempre, mi frutto, piace, di è sempre frutto di interpretazione, allora, sempre. Perché la Bindi allora ha fatto perché questa roba? Perché ha applicato questo famoso regolamento che però non è chiaro, che bene, però non è chiaro questo regolamento. Come tutti i regolamenti esatto, possono essere non è chiaro. Interpretati, no? Esatto, allora, non è c'è chiaro. Un regolamento sottoscritto da tutti i partiti che non in commissione, è chiaro. I quali partiti tutti hanno tradito quel che hanno scritto non è vero, in quei regolamenti. Non è vero, tutti, perché non è stato nemmeno approvato tutti, dal tutti. Parlamento questa roba qua, non è stata sì, approvata, ma capisci, non è stata mai votata. Ma il Parlamento non doveva approvare per cui la signora Bindi ha fatto quello che voleva in beata solitudine. Era un'autoregolamentazione ma dei partiti. Ma quale autoregolamentazione? Non era una legge dello Stato, è diversa la cosa. Fermo, se vuoi farmi credere che la Bindi ha agito semplicemente per scrupolo di legge, non mi convincerai mai. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. La zanzara. Allora ragazzi, è di qualche minuto la notizia di calcio, ma importante, poi vi spiego perché ve lo dico, che Carlo Ancelotti ha rifiutato la panchina del Milan. Parenzo, tu non sai nulla di questo, però qual è il riflesso politico? Prima delle elezioni si è detto Berlusconi sta facendo una tarantella su questa cosa, cioè sta dicendo Ancelotti potrebbe venire al Milan, vogliamo che Ancelotti torni al Milan, eccetera eccetera, per motivi politici, sapendo già che gli avrebbe detto di no. E allora molte persone dicono adesso che sono finite le elezioni e Berlusconi è passato all'incasso, questa è una tesi, no? Berlusconi è passato all'incasso, si svela come dire, certo, la farsa, certo. Cioè Ancelotti annuncia oggi che è martedì, no? Martedì 2 giugno, a due giorni, dopo due giorni dalle elezioni, dice vabbè, non vado più al Milan, cosa che secondo questa teoria si sapeva. Allora io dico una cosa, quale utilità ha avuto per Berlusconi tenere, come dire, il fiato sospeso fino a oggi? Che Toti ha vinto in Liguria, ma davvero pensate che gli elettori della Liguria, quando anche fossero milanisti, sono rimasti impressionati da questo annuncio di Berlusconi di voler prendere Ancelotti? Non mi pare possibile. Forza Italia ha avuto un exploit pazzesco in queste elezioni, no? E dunque Berlusconi ha giocato con gli italiani sulla vicenda Ancelotti? No, ma... ragazzi, stiamo al 10%, cioè il più grande tonfo elettorale della storia di Forza Italia, forse, se uno proprio va a vedere i numeri, al di là della vittoria di Toti in Liguria. Per cui credere che Berlusconi, può darsi che nella sua mente ci fosse questo ragionamento, ma... abbia agitato lo spauracchio del signor Ancelotti, che non mi sembra quello di questo acchiappavoti, non è Cacà, un giocatore che può, no, che può attirare qualche cervello a dire beh, voto ancora per Berlusconi perché mi può regalare un sogno. Dai, su. Allora andiamo a Fulvio Napoli. Fulvio Napoli, vai. Ciao, buonasera ragazzi. Dimmi. Ragazzaccia, sì, devo dire. Innanzitutto, diciamo, io non voglio fare i complimenti alla trasmissione, ma alla redazione, che praticamente, diciamo, quando ti lancia ti dice: guarda, mo ti metti in comunicazione, mi raccomando, dacci dentro su Parenzo. No. Mai detto una cosa del genere. No, bellissima questa cosa. Smentisco che ti abbiano detto una cosa di questo tipo. Qualcuno ha detto così, qualcuno dall'altra parte del vetro. Avete detto così? Che stronzi, che teste di cazzo. Cioè, è simpaticissimo, diciamo. Cioè, ti hanno detto così al telefono: dai sotto su Parenzo, dai giù a Parenzo. No, vabbè, dai, non voglio creare un. Chi è stato? Capito, Parenzo? Qual era qualcuno della redazione? Parenzo, qual era qualcuno? Poli è stato Poli. Lavorano per il nemico. Sono come i collaborazionisti di Mussolini della Repubblica Italiana. Che vergogna! Dai giù, dalli a Parenzo. Lavorano per il nemico. Prendono le telefonate e dicono: dai giù a Parenzo. Capito? Ma lavorano per il nemico. No, ma questo può far. Io li perdono perché sono come quei collaborazionisti che poi dopo con l'8 settembre del 43 passano dall'altra parte. Allora io vi adoro. Voi la trasmissione. Vabbè, però vai, Fulvio, andiamo. No, quello che volevo dire è questo. Cioè, sul fatto, diciamo, di Salvini, no? Diciamo, la ruspa, non la ruspa. Allora, capite e fate passare, diciamo, questo messaggio importante, che il fatto della ruspa, diciamo, è una provocazione. Cioè, voglio dire, tanto per farvi un esempio, no? Cioè, in inverno, ad Alimuri, non so se conoscete, diciamo, la zona, meta di Sorrento. Sì, certo. Ok, cioè praticamente, diciamo, sono questo scheletro di albergo che è stato costruito negli anni 60, ma è rimasto sempre uno scheletro. Vabbè, dove allora... si erano praticamente, diciamo, in qualche maniera rifugiati, praticamente, diciamo, una quarantina, una cinquantina, diciamo, di senza tetto, cose di del tutto, genere. Cioè, vabbè, allora tutto, tossici, in inverno tutto, cioè, lo hanno distrutto, demolito con la dinamite. Ok, quindi, diciamo, questo fatto, diciamo, delle ruspe con... perché era abusivo, allora, diciamo, amico non, mio, non, sì, ma dopo quanti anni? Ma dopo quanti anni? Dopo tantissimi anni, veramente. Ma guardi, caro Vito, che di conseguenze che ma guardi, allora, ma che vuoi guardi, dire? Ma non vuol dire niente, perché guardi questo mostro. Quindi quello che voglio dire è questo, se me lo fate dire. Cioè, voglio dire, campi rom che sono abusivi, sì, vanno in qualche maniera, diciamo, demoliti, cioè, ma senza dubbio va risolta, diciamo, questa cosa, pari diritti, pari doveri. Ma quanti anni si dice di buttare giù le velle di Scampia, ad esempio, e nessuno anche l'ha fatto? Quelle, anche ma quelle, appunto, ma come mica sono abusive quelle, non ci sono abusivi lì dentro, non ci sono abusivi. No, non hai capito, aspetta, no, ma il degrado è degrado, non è che se è un degrado. Fermi tutti, attenzione, non ci capiamo, Fulvio, aspetta, adesso ti ridò la parola un attimo, fermi tutti. Allora, la questione è molto semplice, non mi puoi paragonare un campo rom a Scampia, sì, certo, non perché non ci sia illegalità, figuriamoci a Scampia, certo, per la semplice differenza che almeno da un punto di vista formale le vele di Scampia ci saranno sicuramente abusivi, gente che occupa la casa e non paga, tutto quello che ti pare, spaccio di droga, illegalità diffusa, una parola sola puoi sì, dire, amico degrado. Mio, però non è che puoi spiegare ma tutta, no, amico mio, tutto c'è il degrado. E allora che vuol dire? Il degrado va finalmente ti accorgi che il degrado va contrastato, ma che va vuol dire? La legalità, ma come che vuol dire? Vuol dire creare condizioni urbane di vita civile, ma scusa, vuol dire ma... mandare mediatori sociali, mediatori vuol dire mandare la polizia, sociali. Sì, vuol dire fare tanti interventi, non uno solo, tanti, vuol dire che ci ripristinare la legalità, vai, Fulvio, mandare vai i bambini allora, a scuola, che assistenti sociali, che banalità. Allora andatevene tutti quanti a fare in culo, mandate le ruspe, distruggete tutto, bruciate, avete risolto il problema. Beh, a mio parere scampiava, ma ci sono tanti livelli per combattere l'illegalità. Mi fai parlare con Fulvio da Napoli un attimo, come si fa? Vai, Fulvio, allora, il motivo per cui chiamate pro questo, cioè il paragone che, diciamo, che David fa sempre, diciamo, con Scampia, ed è anche giusto, no, perché praticamente il degrado, no, amico mio, con Scampia l'hai fatto prima, dai, forza, Fulvio. Ma sì, certo, ma dimmelo pure, amici di Scampia, chiamate, mandatemi a quel paese, a Scampia cosa c'è degrado, ma lo sanno tutti, lo dice il sindaco, dai, forza. Ok, d'accordo, che d'accordo, stupido, va benissimo, il degrado c'è dovunque, però io sono un ingegnere meccanico e vivo a Scampia. A Scampia vivono, diciamo, milioni, praticamente, certo, vabbè, migliaia, insomma, di professionisti che no lavorano la mattina, diciamo, vanno alle 8, diciamo, sono sul posto, ecco di la lavoro. Differenza, stato un ecco la differenza no, che ti sta facendo come a fianco ai campi rom, come a fianco ai campi rom, uguale, come a fianco, uguale, non dentro, cioè fianco, nello stesso non contesto, prego, no, anche nelle vele, io ci sono stato, nelle vele ci sono persone che ad esempio lavorano, non possono permettersi di pagare l'affitto e vivono a fianco al degrado più assoluto, cioè ai criminali. Tu hai paragonato il campo rom, se ti ho capito, capisci? A Scampia. A fianco ai campi rom. Ma vivono delle brave persone che lavorano e che vivono in quartieri che sono c'entra? Quartieri tu hai popolari. Parlato il campo rom a Scampia. Il campo. Se vuoi giocare con non le parole fuori giochiamo. Dal campo. Io ho detto il contesto Scampia è un contesto tanto, di degrado. Dici una cosa e poi no. E poi... No, dico esattamente. Va bene. Me la gente di intelligenza Fulvio allora no, non ha capito. Fulvio non ha capito allora, infatti. Fulvio sta dicendo che è pieno di professionisti dentro Scampia. Certo, perché c'è un quartiere che lavorano dentro allora, il campo rom non c'è nessuno. Capito? C'è anche lì gente che lavora e criminali. È la stessa cosa. Va bene, d'accordo. Ma la certo! Cosa. Va bene, la ma è quello cosa. Che sto dicendo. Fulvio, è la stessa cosa che tu che dici a Scampia, tu secondo te? Ma puoi parlare per tutta la trasmissione. Io ho 5 secondi per parlare, per dire la mia. Fammela dire. Dilla. Fino in fondo. Allora, non solo è pieno di professionisti, di gente che si reca al lavoro alle 8 del mattino e lavora fino diciamo alle 6 del pomeriggio, ma di percentuali dobbiamo parlare, anche di scolarizzazione dei bambini, anche praticamente diciamo di allora e poi soprattutto cioè il paragone improprio succede, o no? Il paragone quando improprio succede? O no? Il paragone com'è? Improprio o no quello che ha fatto Parenzo? Questo voglio capire. No, è improprio secondo me, perché anche quando succede diciamo qualcosa di grave a Scampia arriva la polizia oppure arrivano i carabinieri, se li prendono, li portano in caserma, li identificano e li portano diciamo da qualche parte o comunque gli fanno pagare. Dici, da altre parti, nei campi rom nei non campi rom tutto questo non succede né a livello di professionisti né a livello di scolarizzazione. Ho capito Fulvio. Né a livello di grazie. Ciao, grazie. Da Luciano da Milano, vai Luciano. Ciao. Dimmi, Luciano. Io volevo sapere, visto che è il 2 giugno, che ci faceva la Boldrini alla sì. parata militare? Lei che è un'antimilitare dichiarata, avrebbe fatto prima ad andare in un campo di zingari, anzi chiedo scusa, non vorrei suscitare l'irritazione di Parenzo, radicale. Cioè, doveva andare nei campi rom invece che alla parata del 2 giugno? Eh sì, che andava a fare i militari lei, per tutte le persone che l'avranno visto, dice, ma che ci fa questa? Lì? Vabbè, però è presidente della Camera, formalmente sta lì sì, alla parata. La presidente, chiedo scusa. No, io dico il presidente, me ne sbatto i coglioni. Cioè, no. Il presidente. Il presidente. Presidente, me ne frego totalmente. La presidente. Quella? Quella cogliona dice la presidente. Sì, ti assumi la responsabilità di aver detto della cogliona alla presidente della Camera, ha fatto cambiare tutti i timbri della Camera, sai quanto ci è costato a noi italiani? Ma quella è una follia, che c'entra? Ma su quello sfondi la porta aperta. Quello dicevo, ma che ci faceva un antimilitare di come lei alla parata del 2 giugno? Avrebbe più fatto bella figura Grasso o Renzi, ma chiunque tranne lei. Ciao Luciano, ciao, pubblicità. Parenzo ama gli zingari? Perché probabilmente lo somatizzano. La zanzara. Ma dai, ma scusa, ma questa trasmissione è fantastica. C'ha sempre però quel Parenzo che comunque è messo lì a dire delle cose un po' strane. L'hanno soprannominata Zanzara Horror, è semplicemente la voce degli ascoltatori che dicono quello che pensano, spesso cose orribili, sui rom. Giuseppe da Bologna. Questi campi rom non li vogliamo più in Italia, forse per me, come la penso io, entrerei come entravano gli americani nei villaggi dei Viet Cong in Vietnam, con i lanci a fiamme. Cioè col napalm. Col napalm, bravo, sei d'accordo con me? No. Come li consideri dei rom? Io degli animali selvatici, basta, solo questo. Sono delle, anzi, la bestia è da rispettare di più, perché l'animale va rispettato. Il rom no, perché il rom beve, si ubriaca, fa le cazzate, poi... Secondo il Fatto Quotidiano si ribellava solo Parenzo di fronte alla marea razzista. Se noi facciamo un referendum, stai pur sicuro che Hitler ritorna, Mussolini ritorna, che li stermina tutti questi qua. Che cazzo ci dobbiamo fare noi di questa gente? Allora, fermi tutti. A che serve? A che serve? Dunque, tu che, tu che cosa ti, come dire, cosa ti immagini, cosa ti auspichi, cosa sogni? Sogni la distruzione di tutti i rom? Sì, proprio non ci devono più esistere. Terminamoli, levamoli, mettiamoci in mezzo pure Parenzo, perché sennò vedi che fa, quelli come Parenzo, li difende, capito? facciamo qualche bene. Cosa da lei e lì, andiamo a da fuoco, andiamoci, io sono il primo, porta la bandiera. Amico, beh, Franco, diciamo, lei praticamente... Voglio proprio fuochi, voglio le vacche, non servono, sono inutili, non pagano tasse, fanno tasse. Scusa, io adesso mantengo la calma. Che ce famo? Mantengo la calma. Ma vorrei, mantengo la calma, vorrei... Ma capisci, cazzo, non me va manco di parlarci con te. Tu capito? Sei che cazzo un... ti difendi? Che tu ti difendi? Sei che... un razzista, coglione. So, di più. Facciamo un referendum, vediamo chi ma vuole Mussolini, chi ritorna Mussolini. Ma che c'entra? Allora sono gli ebrei e questi sono peggio degli ebrei. Perché i topi devono essere terminati? A che servono? I topi? Cioè, loro sono come i topi, tu stai dicendo. I rom sono come i topi, peggio dei topi. Peggio. Vabbè, ragazzi, io di fronte a questa cosa qui non posso dire più niente. Loro sono peggio dei topi. I topi se mangiano i fili, se mangiano loro se rubano i fili, se rubano le macchine, se rubano tutto. Traffico veicolare. La Zanzara. A Parenzo ama essere somatizzato dagli zingari. Allora ragazzi, andiamo a Torino da Domenico, vai. 800 24 00 24. Domenico, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Allora, no, io non so se sono ancora in tempo, io volevo parlare di Uber, una considerazione molto breve. Tu sei sempre in tempo, dimmi. Perché ne parlavate ieri. Niente, io sono a favore di Uber, credo che la categoria dei tassisti si debba rassegnare e adattarsi alla logica dei tempi in cui viviamo. Quindi regolamentiamo Uber, facciamogli pagare le imposte, come è giusto che sia, e buonanotte. Mm. Anche perché... Cioè, anche il BlaBlaCar, no? Che differenza c'è? Almeno Uber ha un circuito di pagamento interno che, grazie alla carta di credito, interessa gli utenti, i driver, l'impresa Uber. E quindi chi è di competenza regolamentasse questo servizio in modo che Uber paga le tasse sul territorio nazionale come fosse una normale impresa. Ma io sono d'accordo con te, Domenico. Un normale servizio. Io sono d'accordo con te. Riconoscerai che questa vicenda è assolutamente anomala. Cioè, c'è un operatore che non paga gran parte delle sue tasse in questo paese, che agisce in una situazione, in alcuni casi, come è stato accertato, di illegalità nel caso questo di Uber. Come tante multinazionali che non pagano le tasse. Assolutamente. Una situazione accertata di illegalità come quella di Uber Pop, e un'altra che è molto discussa come il servizio Uber Black, per cui io dico, si vogliono cambiare le regole per far entrare nel mercato del trasporto pubblico, si vogliono liberalizzare del tutto i tassi o il servizio taxi nelle città, va benissimo che la politica decida di deregolamentare tutto, di liberalizzare tutto, va benissimo, senza orari, con prezzi che ognuno fa come vuole, va benissimo, tutto perfetto, però lo facciano. Non è che uno si può inventare una roba che è totalmente contro la legge, come nel caso per esempio di Uber Pop. Io quello dico. Carlo da Siena, Carlo. Pronto, Luciani? Dimmi. Ascolta, non so se hai avuto modo di leggere da qualche parte di quello studio fatto in America dal professor Smith sui buchi neri. I buchi neri, no, amico mio, non mi occupo. Allora, guarda, non mi occupo di buchi neri, qualche volta mi occupo di altri buchi, però non va bene, di buchi lui neri. Sostiene in effetti che, visto fisiologicamente come veniamo al mondo. No, i buchi di bilancio, intendevo quello. Siamo tutti figli di buchi. Siamo tutti figli di buchi, tuttavia, i buchi sono uguali. Cioè, buchi dai quali vengono fuori degli esseri umani in carne e ossa, e degli altri buchi dai quali vengono fuori soltanto gli stronzi. Tu da quale buco sei uscito? Soprattutto, probabilmente da quello dove escono gli stronzi. Da quale buco del tuo buco si esce soltanto, o si entra, si esce a piacimento? No, però ripetemi un po' questa metafora che è piuttosto complessa. Allora, ti chiedevo se dal tuo buco si esce soltanto, sì, oppure si entra e si esce a piacimento. Guarda, dal mio si esce. Come la mettiamo? Io esco pazzo quando sento un attimino da quella cloaca massima che il tuo capo orale dire delle stronzate del genere. Ma a cosa ti riferisci, però, scusami, che sei... Ah. al tuo modo di fare. Al mio modo di fare, sì. Allora, stai aspetta. Attento, ci sono i cani qui. Buono, è soltanto al telefono. Ciao, sciogli i cani. Vabbè, ma ciao, saluto Mazzore. Dai. Siamo a ricovero coatto qui, eh. Carlo, allora, io dico una cosa. Dal mio buco esce solamente... e non entra nulla dal mio, però non penso che se entra qualcosa ci sia negativa come opzione, capito? Potrebbe essere anche divertente far uscire e far entrare, o no? Come? Far entrare e far uscire potrebbe essere divertente, amico mio. E te l'ho detto, a piacimento. E allora? Perché ti piace a te? A me no, però se a te piace? Se te lo chiedo a te, a me non piace. Amico mio, però conduco io, fino a prova contraria, no? Conduco io questa trasmissione, non tu. Per cui conducila tu. Appunto, la conduco io e ti chiedo. E io ci partecipo come mi pare. Ah, sì, d'accordo, certo, puoi anche chiudere il telefono. Ci mancherebbe altro. Ma tu la prendi o esci solamente? Fai dipende uscire dai cani, adesso li sciolgo, guarda. Se non stai zitto, adesso sciolgo i cani e libero lo sciavo, hai capito? Dai, perché meriti questo, scusa. Merito questo. Ma tu ti rendi conto che il tuo modo di fare. No, io voglio capire se questa sera c'è stato il passaggio degli infermieri oppure è in ritardo. No, ma arrivano prima i cani. Arrivano prima i cani? Sì, può darsi. Arrivano prima i cani da te, hai capito? Ma guarda, io non amo i cani. I cani nemmeno amano te. Non ti preoccupare. Probabile. Ciao Carlo, ciao. Grande ritorno alla Zanzara, il professore avvocato, devo dire che è richiesto da un sacco di ascoltatori, è un mistero, un sacco di ascoltatori mi chiedono, ma quando richiamate, quando interviene un'altra volta, il professore avvocato Carlo Taormina, eccolo qui. Buonasera. Come andiamo? Buonasera. Grande richiesta degli ascoltatori, non so perché. In vacanza oggi? In vacanza? In vacanza, per modo di dire, si lavora sempre. Si lavora sempre, professore. Si lavora sempre. Ma io ho una curiosità, caro avvocato. Ma hai visto come mi attaccano? Sì, mi attaccano. No, ho sentito una cosa vergognosa, soprattutto per l'entrata. L'uscita, lasciamola perdere. Per l'entrata. L'entrata io. Proprio. Sull'entrata. Mi auguro proprio. No, io no. Io no. Io non amo prenderlo nel culo, diciamola tutta. È senese che ha queste. Sì, il buco, dicono il buco, no? Dicono il buco. Lasciamo perdere questa cosa. Lasciamo perdere, insomma. È successo qualcosina in Irlanda, È successo qualcosina in Irlanda. In Irlanda. Non andremo in Irlanda. Lei non andrà in Irlanda. No, io sono contrario, totalmente contrario, come ben sapete. Assolutamente. Però non è che se vai in Irlanda le capita qualcosa, questo a me non capita sicuramente, a lei sicuramente potrà capitare. Anche perché ho altri gusti. Ma non è che se lei va in Irlanda le capita qualcosa. Io che sono stato condannato per avere detto che non intendo assumere gay, va bene. E la conferenza episcopale italiana che si è rivoltata contro l'Irlanda che ha fatto il referendum che tutti quanti conosciamo, nessuno la accusa di niente. Bravo, questo è vero. È una cosa veramente. Questo è vero. Perché la conferenza episcopale, il signor Parolin del Vaticano ha detto che addirittura è un attacco all'umanità. Anche Bagnasco ha detto la stessa cosa. Andrebbe denunciato per contro queste persone qui, però la Lega che mi ha fatto condannare non si rivolta, non ha il coraggio di farla. Una bella citazione a Bergamo dove fanno loro le cause. No, ma su questo il professore ha ragione, su questo il professore ha ragione, devo dire la verità, perché è veramente una vergogna, guardate, è veramente una vergogna, qui non c'è più la possibilità di dire quello che si pensa, bisogna stare attenti a... Vabbè, adesso non esageriamo, professor. Bene. Se uno sta attento poi è finito, dai, è finito. Ma certo, però bisogna stare attenti perché le condanne se le prendono quelli che non stanno attenti. Io dico una cosa, professore, però comunque quel senese qua con tutte le cose, i miei sono atteggiamenti molto spesso criticati o altro, ma quello è stato veramente volgare e rivoltante, un personaggio veramente che bravo. È giusto che sia sentito, perché la vostra non è una radio ma è veramente una piazza per il mondo, però voglio dire, questo veramente è un personaggio che dovrebbe non meritare nessuna attenzione. Però scusami professore, come hai preso? Adesso veramente poi non ci torniamo più. Poi avete vinto col Napoli, va bene, è andata bene. Amico mio, abbiamo vinto, che devo fare? Ti voglio capire una cosa, sabato, tu non sapevi manco che ero della Lazio, capito? Ma perché io non mostro nemmeno la mia lazialità, me ne frego di queste cose. No, mi sono accorto a Tiki-Taka, perché quando lì ho capito che tu sei della Lazio, quindi... un ulteriore elemento negativo che si aggiunge alle mie valutazioni intorno alla tua personalità. Vabbè, senti una cosa. No, non è vero, è vero, perché la Lazio ha giocato bene, ha meritato. Senti, Carlo, meritava molto di più di quello che ha avuto. Dimmi la verità, sabato. Tu sei con la maglietta del Barcellona in pratica, certo, assolutamente. Ma no, dai, professore. No, nel modo più assoluto, guarda. Peggio perde e meglio è per me. Ma parliamo dell'Italia, però. Scusa, ma guarda, sono proprio pieni di sono tronfi, sono pieni di una stupido orgoglio. Che una cosa è la sportività, è l'essere esuberanti, l'essere anche simpatici e con toni. Cioè, stai parlando degli Juventini, sì. Ma per carità, sono una setta, sono ma una come setta. Una setta, purtroppo, dai, una molto, setta. Molto, purtroppo molto, molto potente, numerosa e potente. Blatter è caduto, Blatter è caduto, sì, finalmente, Blatter è caduto. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Non parliamo mai di niente, Siamo tolti dai coglioni, dai, su, diciamo la verità. Sì, anche se è strano, dice... No, ma è pericoloso perché potrebbe venire uno Juventino come Platini al posto tuo, quindi... Il problema è... Si può riproporre addirittura. Quello che esultò alla consegna della Coppa dei Campioni all'AISL, anche se poi... Esatto. Dunque, diciamo che il livello di intollerabilità di Blatter non lo potrà avere certo Platini. No, ma io non ho capito una cosa, Carlo. Tu veramente sabato fai il tifo per il Barcellona contro la Juventus? Certamente, l'ho già detto pubblicamente, infatti i Juventini già si sono scatenati, mi hanno fatto minacce, eccetera. Ma bisogna tifare per una squadra italiana, scusa, professore, dai, ma che roba è? È una competizione europea nella quale è di club, non è di nazionale. Cioè, se tu potessi, la Juventus innanzitutto la escluderesti dal campionato, diciamo la verità. No, io non lo escluderei dal campionato, vorrei soltanto che facesse un campionato come gli altri, che gli altri... Cioè ruba i campionati. Gli altri avessero le stesse possibilità della Juventus. Ma che vuol dire? Che ruba i campionati, li condiziona, che cosa? Ha vinto con 20 punti di vantaggio. Quando la Juventus è in difficoltà, che sia soltanto il gioco a fargliele superare, non altre cose. Cioè tu dici, guarda, alla fine... Mi sono imparato a parlare, perché l'ho preso troppe volte a quel posto e mo non me fregano più. Cioè con che cosa dici? Ah, cioè, perché diresti di peggio. Ma certo che direi di peggio, ma no, invece dico che quando avranno delle difficoltà, mi auguro che supereranno sempre con il gioco. Ma dai, ma tu ti stai augurando sabato una specie di disastro della Juventus, un trionfo. Sì, purtroppo vincerà la Juventus sabato. Allora, fermi tutti, torniamo dopo l'interruzione come al solito, c'è la pubblicità, torniamo di nuovo con il professor Carlo Tolomino, perché ci sono due o tre argomenti interessanti, tra cui quello della Bindi. So che è molto caldo sulla Bindi, eh? Amico mio, e allora? State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. La Zanzara. Un dibattito pubblico nel corso del quale io intendo sbugiardare questa pia donna di potere, tale Rosy Bindi, e dimostrare che l'unica impresentabile vera è lei, che si appoggiava quando doveva prendere i voti su notabili campani, fra i peggiori esponenti della clientela politica nella sanità pubblica campana. Io trovo straordinaria anche l'imitazione che fa Crozza, che dice, no, di Saviano, che dice a un certo punto, no? Com'è che fa di Saviano, che dice Saviano, Roberto, personaggetto. Ah, io adoro quest'uomo, De Luca, adoro quest'uomo, adoro. Voci contro i Rom. Voci contro i Rom. Piazza Pulita, no, anzi, che era Quinta Colonna, come al solito, Piazza Pulita. Oh, Piazza Pulita, vai, Piazza Pulita, programma, diciamo, sulla 7, non è Quinta Colonna, non è la Zanzara. Voci contro i Rom. Questi devono pagare. Marcire in galera, pane e acqua e lavori forzati. Va bene, va bene. Finché morte clima... non li separi, pane, acqua e lavori forzati. Va bene, lavori, e Roberto. Non con i diritti. Questa è la Quinta Colonna. O li mandi via o gli damo fuoco, due sei cose. Perché la giustizia non va fatta dalla polizia, la giustizia la dobbiamo fare da soli. Giuro su Dio, meglio Salvini, che venga Salvini, che è ruspe. Io vado con la benzina, mi dispiace, oggi sì, non sono razzista, oggi sì. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Allora, siamo con il professor Carlo Taormina. Voglio chiedere subito una cosa a Taormina che riguarda la Bindi. Che ne pensi di questa vicenda? Vabbè, è anticostituzionale, una vergogna, uno scandalo. La Bindi non doveva fare quello che ha fatto, una specie di vendetta contro Renzi. Qual è la tua... Ma la mia opinione è che questa è una questione molto seria, anzitutto, quindi la trattiamo qui perché qui si trattano le questioni serie. E io credo che qui ognuno cerchi di trovare un parametro... Sì. Attraverso il quale stabilire chi deve candidarsi e chi non deve candidarsi. Alla fine i partiti ne hanno uno, le commissioni ne hanno un altro, i comitati di quartiere ne hanno altri ancora. Io credo i protagonisti sono gli stessi, Carlo. No, i protagonisti in realtà sono gli stessi, cioè i partiti Vabbè, ma come giudichi la Bindi? Dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. No, ma vedi, di fronte alla impossibilità di trovare dei criteri stabili. No, ma io dico, che ne pensi della Bindi? Questo voglio capire, al di là della questione della Bindi, allora, io dico questo, ci deve essere, è solo la legge che può stabilire chi è candidabile e chi è eleggibile, è inutile che ci prendiamo in giro, ed è una legge che deve essere rispettosa della Costituzione, a cominciare dalla presunzione di non colpevole. Per cui finché uno non è colpevole al terzo grado può essere candidato come gli pare. Ma certo, ma non me ne frega più niente, perché non è che posso ma tu sei diventato grillino, sei diventato grillino e Grillo la pensa esattamente all'opposto. Ma a me non interessa, io lavoro con ragiono con la mia testa, io sono grillino. Ma tutte le cose che loro sostengono io le condivido e quindi ragiono con la mia vorrebbero cacciare pure quegli inquisiti e solamente indagati. Vorrebbero cacciare quegli inquisiti. Io dico, se si trova un criterio che legislativamente stabilisce che non ci si possa presentare perché si è in determinate condizioni giudiziarie, come nel caso di De Luca, d'accordo. Altrimenti è inutile che avevano stabilito un criterio che però si è ovviamente non vincolante. Perché questo loro, i partiti. Ma un partito ha detto una cosa. Lo hanno stabilito, non ha forza di legge, ma è come dire, ci mettiamo d'accordo tra di noi che non passano più le telefonate contro i Rom. È un criterio nostro. Ci vuole la legge perché ha ragione Carlo, ci vuole una legge. Se le persone fossero serie, alcuni sono stati presentabili, altri non presentabili, la Paita presentabili, De Luca non presentabile, che ragionamento è? Però è una contraddizione, scusami. Alle volte si dice che ci sono troppe leggi ed è vero. Allora, altre volte tutti, i partiti si mettono d'accordo. Fermi tutti. Gino da Milano, voglio sentire Gino da Milano. Fermo un attimo, Carlo. Gino. Buonasera. Dimmi Gino. Buonasera. Ma perché devo ascoltare certi stronzi che dicono queste stronze? Quali? Con chi ce l'ha? Io sono italiano. Sì, sei italiano, sì. E io in finale tifo per la Juventus. Io tifo per la Juventus. Se ci fosse un'altra squadra in finale, io ti farei per quella squadra. Cioè, se ci fosse l'Inter. È impossibile che un italiano non tifi per la Juventus. Non ha tutti i torti. Però scusami. E invece c'è un italiano. Ecco, invece c'è un italiano. Ma FIFA per il Barcellona, va bene. Sì, ma allora Crucia... qual è il problema? È vietato? No, no, c'è vietato. Un problema, anzi e forse... Allora, ma lei capisce che significa partecipare ad una competizione europea? Non significa che partecipino le nazioni... partecipino i club. Io sono italiano, comunque come faccio differenza fra Roma e Lazio, perché tipo per la Roma quando si tratta di una squadra europea di club, io tipo per chi mi pare. Che stronzate, mamma mia, ma una cosa incredibile. Non ho capito, Gino. Comunque ecco, ho capito, ecco adesso aspetta, dire una cosa? Dimmi, Gino, anzi è meglio che l'avvocato tifi per il Barcellona, perché porta una sfiga bestia, infatti, ma chi è sto avvocato che non azzecca mezza causa in vita sua? Vabbè. Ma sì, tifa che Barcellona, c'entra adesso tifa questo Barcellona, che cazzo tifa, c'entra? Tifa, tifa. Adesso sì, metto sì, insieme sì. delle cose che non conosce e delle quali che non c'è nessuna possibilità di comparazione. Barcellona, va bene. Barcellona. Ma io non ho capito, Gino, non ho capito una cosa, ma è quello stronzo che hai detto all'inizio, a chi era rivolto? Vabbè, a chi era rivolto? Se, chi vuole intendere, intenda. Chi vuole intendere, intenda. Che cosa, scusi? Ma a chi mi riferivo quando dicevo che io non voglio più sentire certi stronzi in trasmissione? A se secondo lei? Io penso che si riferisca a lei stesso. Sì, come no. Io mi riferisco invece a un avvocato che non vince un cazzo da una vita. Questo, e viene a rompere i coglioni in trasmissione lei. Da Cruciani. Questo lo dice lei. Se lo dice lei, certo non se lo dica. Infatti, certo per queste cose io. Che lei sta dicendo, siccome le sta dicendo in trasmissione e quindi sono pubblicamente sentite da tutti quanti, io, certo. Se lei è coraggio di farsi riconoscere, io lo faccio. Con la sfiga verrà giù il tribunale, ha capito? Mamma mia, che ha capito? Vabbè, Gino, basta, hai rotti i coglioni. Gino, hai rotti i coglioni. Va. Juventus, si tifa Italia in una finale di Champions. Punto. Io basta. Tifo per chi mi pare. Si vergogni. Per chi mi pare. Ha capito? Si vergogni. Ma lei, al di là si vergogni. Lei non si può permettere. Lei è un personaggio pubblico. Si vergogni. Inviare il prossimo. Ma basta. Basta, Gino, basta. Lei ha il coraggio di svelarsi e di dire chi è, perché io domani mattina farò una querela nei confronti della persona che in questo momento sta parlando. Ma no, perché lei non può infangare il nome di un professionista come sta facendo. Ha ragione. E non può fare apprezzamenti come basta, quelli che ha formulato. Gino, ma deve smettere. Gino, basta. Deve finire questa storia. Gino. Perché io sono una persona che ha una sua personalità, una sua storia, una sua dignità e non tollero più queste situazioni. Basta, Gino, basta, basta, via. Gino, basta, via. Oh, mamma mia. Allora, voglio chiedere però all'avvocato caro Tormino una cosa. A proposito dei Rom, che ne pensi dei Rom? Che personaggi sono? Hanno nel DNA il furto, secondo te? Ma guarda, non è che ce l'hanno nel DNA, hanno una loro filosofia di vita che certamente non corrisponde con quella nostra. Questa è una situazione che deve essere governata non certamente alla Salvini, perché non sono perché assolutamente no? d'accordo. No, non sono meno d'accordo male, con meno le ruspe, con questi atteggiamenti di rozzi, eccetera, che non posso condividere. Però il fenomeno è quello che tutti quanti conosciamo, siamo attanagliati da queste situazioni e capisco quindi la disperazione di tutti, compresa anche la mia, però da qui a niente ruspe, insomma, niente ruspe. Insomma, lasciamo perdere, dai. Allora, Carlo Tormina però ha una particolarità, riceve un vitalizio incredibile, dictu, perché è venuta alla luce anche questa cosa nelle settimane scorse, di 2045, allora, di 2045 euro. Hai ricevuto, la gente dice papponi. Aspetta, la gente dice ne hai ricevuti 221.000, ne hai versati 60.000. Ed è meglio che io li riceva, perché se li tenesse, io con i soldi del vitalizio ci mantengo cani e gente che non può rimanessero in mano allo Stato, se li fregherebbe qualcuno. No, quindi come cani, come i cani, scusa. Beh, io sono un amante dei cani randaggi. per i quali svolgo un'attività di custodia e quant'è di raccolta. Non è che i soldi del vitalizio con ai cani, ma un cazzo sul serio, Carlo. I soldi del vitalizio ai cani. Vitalizio a cani e a persone che non possono. Meglio ai cani piuttosto che allo Stato. Ha ragione su questo. Il vitalizio è una cosa che io ho, che io percepisco regolarmente. Ma regolarmente hai fatto un pezzo dello Stato. Ma certo, ma è una truffa, è una truffa. No, no, non è una truffa. Ma è una truffa legalizzata. Se è truffa questa, è truffa tutte le pensioni che vengono percepite su base retributiva e che sono il 70% della gente che oggi percepisce una pensione. Per cui non, a parte il fatto che l'assimilazione del vitalizio alla pensione è assolutamente... Ma scusa, dallo alle associazioni gay il vitalizio, almeno è più utile. Come? Dallo alle associazioni gay, è più utile il vitalizio per le loro attività. No, lo do ai cani, ai cani. E alla gente che può. Le associazioni gay se le facciano come vogliono. Dovrebbero imporre per legge che quei 2.000 euro vengano dati per beneficenza alle associazioni gay che si occupano di volontariato. Ti piacerebbe. No, a me non piacerebbe così, per niente, io non ho vitalizi, quindi. Meglio i cani. Ecco. Meglio i cani. Però dico una cosa, professore. Comunque lui ha... No, l'ho capito esattamente. Lui ha versato 60.000 euro, giusto? Sì. Ho versato quello che dovevo. È un privilegio. E ne ha ricevuti certo quanti? Certo che è un privilegio. No, ma non ho capito, ne ha versati 60.000. Non c'è dubbio che è un privilegio, anche se compensa alcune difficoltà nelle quali ci si trova quando si svolgono quelle attività. Se tu fai il deputato regolarmente e ti comporti, ma tu incassavi lo stesso. Ho lavorato io dalla mattina alla sera facendo il deputato, io non potevo fare più la mia attività. Ma non mi dire che non facevi l'avvocato. Non lo facevo, ma certamente non potevo farlo nella promozione. Quanti soldi hai perso? Ah, non lo so, è incalcolabile quello che ho perso. È una mia scelta, e quindi ho sbagliato, e quindi naturalmente pago io. Però che quel vitalizio avesse rispetto a quello che versano gli italiani e quello che incassano, è uno scandalo. Ci stanno riempiendo la testa di fregnacce agli italiani, perché ci sono ben altre situazioni sulle quali bisognerebbe intervenire a vantaggio dell'economia italiana. Non sono certamente... Ma fino adesso hai incassato 221.000 euro, amico mio. Io non mi frega quello che ho incassato. Ma come non te frega? E mi auguro che incasserò molto di più, perché ci camperò parecchio tempo. Beh, quello te lo auguriamo. Appunto, assolutamente. Ma per cui t'hanno soprannominato Pappone di Stato, Libero, Il Giornale. Ma che me ne frega a me di Papponi di Stato? Io non so, io ho lavorato come un cane per 5 anni, dalla mattina uscivo alle 3 alle 4 di notte da San Macuto, dove presiedevo la commissione parlamentare d'inchiesta, quindi rubato niente a nessuno. Beh, ho capito, non hai rubato niente a nessuno, però come anche stipendio, anche sulla commissione d'inchiesta sai quante cose però hanno voglio scritto, dire, hanno come? Detto, ma ti pare normale? Niente. Quanti anni hai fatto in Parlamento? Scusami Carlo, quanti anni hai fatto? 5 anni. Con 5 anni incassi 2.000 euro di pensione. La gente è incazzata, amico ma mio. Non è una pensione quella. Ma è un vitalizio, è uguale, è una vergogna, è uno scandalo. Dai soldi all'arcigay. No, è un regolamento economico di un particolare rapporto. Non sei un dipendente. Sì, vabbè, dello ma Stato. Come fai? Il parlamentare non è un dipendente dello Stato. Che c'entra la pensione? Non c'entra ma ho capito, niente. Ma è uguale, è uno scandalo perché per tutta la vita li prendi. Che il futuro possa essere diverso sono fatti di chi andrà a fare il parlamentare nel futuro. Lo dai ai cani. E quindi è chiaro che ci possono essere delle diversità nel regolamento economico, ma che tutto sia perfettamente regolare. Ma sì, vabbè, perfettamente, i deputati se lo sono fatto da solo il regime, allora, certo che è regolare. Pronto? Carlo? Pronto? Carlo? Pronto? Ilda da Roma, vai. Che voce sensuale che ha Cruciani, è veramente una bellissima voce. Tesoro. Qui complimentoni per questo suo programma che ho ascoltato così recentemente. Siete proprio bravi. Dimmi, si tesoro, è inventato sono, un'idea, sono un'idea tutto, geniale. Sì, un po' di anni, sono tutto orecchi, cara Ilda. Vabbè, uno accoglie un nuovo ascoltatore. Non so più da che parte partire. Ecco, appunto, facciamo che la chiamo domani perché sono le 20:50 e devo chiudere, mi dispiace. È pure caduta la linea con il professor Tormi. Le chiedo scusa, ho aspettato quasi un'ora. Lo so, ha ragione. Non importa. No. La ringrazio lo stesso comunque di avermi fatto parlare. Buonasera. E... No, non ha detto un cazzo, scusi. La chiamo lo sa che non ha detto niente. La chiamo domani con tutta tranquillità, durante la trasmissione. Grazie. Eugenio da Milano, Luigi da Pisa, accorato dalla Reggio Emilia, professore Tolmini è caduto. Ragazzi, la vita è fatta così. Ci sentiamo domani alle 18.30. Ciao. Non tutti i buchi sono uguali. Ci sono buchi dai quali vengono fuori degli esseri umani in carne e ossa e degli altri buchi dai quali vengono fuori soltanto gli stronzi. Tu da quale buco sei uscito? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Amico mio, e allora? Radio 24, la passione si sente.